Il terzo anello. Ad alta voce. Anna Bonaiuto legge L'educazione sentimentale di Gustave Flaubert. Federico e Madame Marnoux arrivarono a stabilire in anticipo i giorni delle visite e uscendo come per caso, lei andava a incontrarlo sulla strada. Non faceva niente per recitare il suo amore, perduta com'era in quella sorta di negligenza che distingue le grandi felicità. Per tutta la stagione portò la stessa veste da casa di seta scura con bordature di velluto dello stesso colore, di foggia ampia come conveniva alla languida morbidezza dei suoi gesti e alla severità della sua espressione. Era allora, d'altronde, nel suo pieno meriggio di donna, momento insieme di riflessività e di tenerezza nel quale la maturità che comincia mette nello sguardo una fiamma più profonda e la forza del cuore si unisce all'esperienza della vita. E tutto l'essere, sul punto estremo di quel fiorire, si gonfia di ricchezze smisurate in una sua perfetta armonia. Mai era stata più dolce, più indulgente. Sicura di non cadere, s'abbandonava a un sentimento che le appariva come un diritto conquistato a furia di sventure. E poi era una cosa tanto dolce e tanto nuova. Che abisso fra i modi grossolani di Arnoux e quelli adoranti di Federico! Lui aveva paura di perdere con una sola parola tutto ciò che gli sembrava d'aver guadagnato. Si diceva che un'occasione favorevole si può ripresentare, ma è impossibile rimediare a una mossa incauta. Voleva che fosse lei a darsi, non lui a prenderla. Gustava con delizia la certezza del suo amore come un possesso anticipato. E poi la grazia della sua persona gli turbava il cuore più che i sensi. Era una beatitudine senza confini. Un'esaltazione tale da fargli persino dimenticare la possibilità di una gioia completa. Quando era lontano da lei, desideri furiosi lo divoravano. Un pomeriggio, verso la metà di febbraio, la trovò molto agitata. Il figlio Eugenio si lamentava di un mal di gola. Il medico, veramente, aveva detto che era una cosa da niente, un forte raffreddore, un'influenza. Federico fu colpito dall'aria esaltata del ragazzo. Cercò non di meno di rassicurare la madre, portando ad esempio parecchi bambini della stessa età che avevano avuto malattie del genere ed erano subito guariti. «Davvero? Ma sicuro, si capisce. Com'è buono lei!» E gli diede la mano. Lui la trattenne nella sua. «No, la lasci!» «Ma perché? E a chi vuol consolarla che l'attesa? Lei mi crede quando le dico queste cose e dubita di me quando le parlo del mio amore!» Non ne dubito affatto, mio povero amico. Ma tutta questa diffidenza, allora, come se io fossi un miserabile, capace di approfittare... Oh, questo no. Potessi avere una prova, una soltanto. Quale prova? Quella che si può offrire a chiunque, che anche a me non è stata negata. E le ricordò che una volta erano usciti insieme in un crepuscolo d'inverno pieno di nebbia. Com'era lontano tutto questo ormai. A chi le impediva adesso di farsi vedere al suo braccio davanti a tutti, senza nessun timore per lei, senza secondi fini da parte sua, senza che nessuno intorno potesse importunarli. «E va bene», disse la signora con una decisione e un coraggio che a tutta prima lasciarono stupefatto Federico. «Ma egli subito vivamente l'aspetterò all'angolo di Rue Tronchet e Rue de la Ferme. Vuole?» «Ma, amico mio», balbettava Madame Marnoux, senza darle il tempo di riflettere, aggiunse, «martedì prossimo». «Martedì, sì, fra le 2 e le 3. Ci sarò». Federico aveva un progetto. Sperava, grazie alla pioggia o al sole, di poter riparare insieme a lei sotto un portone e, una volta lì, di riuscire a farla salire in casa. La cosa difficile era trovarne una che andasse bene. Si mise dunque a cercarla e, pressa poco, a metà di Rue Tronchet, vide da lontano un cartello «Camere ammobiliate». Il custode, mangiando la foglia, lo portò a colpo sicuro al piano ammezzato per mostrargli una camera e uno spogliatoio con 2 uscite. Federico la fissò per un mese e pagò la pigione in anticipo. A casa lo aspettava una lettera di sua madre. «Come mai un'assenza così lunga? Il tuo modo di agire comincia ad apparire ridicolo. Capisco che all'inizio, in una certa misura, tu abbia potuto esitare davanti a questa unione, ma... a questo punto è necessario che tu ci rifletta seriamente». E le dava le cifre precise. 45.000 franchi d'argento di rendita. Inoltre, La gente chiacchierava e il vecchio Rock aspettava una risposta definitiva. Quanto alla ragazza, la sua posizione era in verità alquanto imbarazzante. «Ti vuole molto bene». Federico mise da parte la lettera senza finirla e ne dissuggellò un'altra, un biglietto di Delorier. «Carissimo, la pera è matura. Contiamo su di te, secondo la promessa. Ci si riunisce domani all'alba in Place du Panthéon. Vieni al Café Soufflot. Prima della manifestazione è necessario che ti parli». «Bravi, le conosco le loro manifestazioni. Grazie mille. Io ho un appuntamento decisamente più piacevole». Il giorno dopo, alle 11, Federico era già fuori di casa. Voleva dare un'ultima occhiata ai preparativi e poi, chissà, lei avrebbe potuto essere per un caso qualsiasi in anticipo. Allo sbocco di Rue Tronchet sentì venire da dietro la Madeleine un grande clamore. Proseguì e sul fondo della piazza a sinistra vide un gruppo di uomini in blusa e di borghesi. In effetti, un avviso uscito sui giornali aveva convocato là tutti gli aderenti al banchetto riformista. Quasi immediatamente il ministero aveva fatto affiggere un proclama di divieto. La sera prima l'opposizione parlamentare aveva rinunciato all'iniziativa, ma i patrioti, che non erano al corrente della decisione dei capi, erano accorsi al raduno insieme a parecchi curiosi. La folla aumentava continuamente. A un tratto si sentì vibrare nell'aria il ritornello della Marsigliese. Contemporaneamente i soldati di fanteria si schieravano in ordine di battaglia sulla sinistra della chiesa. Pochi minuti dopo spuntarono gli elmi delle guardie municipali. Si facevano largo tra la folla distribuendo piattonate. Federico, guardandosi davanti e di dietro, si mise a percorrere Rue Tronchet. Alla fine suonarono le 2. «E adesso, adesso», pensò. «Ecco, esce di casa, s'avvicina». E un minuto più tardi avrebbe già avuto il tempo d'arrivare. Fino alle 3 cercò di restare calmo. «Ma no, non è ancora in ritardo, un po' di pazienza, diamine!» Quando s'accorse che il suo orologio segnava le 4, provò come una vertigine, un tuffo di spavento. Si sforzò di ripetersi dei versi, di fare un calcolo, non importava quale, di inventare la trama di una novella, impossibile. L'immagine di Madame Arnoux l'ossessionava. Aveva voglia di andarle incontro, ma che percorso doveva scegliere per essere sicuro di incrociarla? Abbordato un fattorino, gli mise in mano 5 franchi e lo incaricò d'andare in Rue Paradis, a casa di Jacques Arnoux, per informarsi dal portinaio se la signora era in casa. Poi si piazzò sull'angolo di Rue Tronchet con Rue de la Ferme per tenere d'occhio contemporaneamente le 2 strade. In fondo alla prospettiva, sul boulevard, scivolavano masse confuse. Il fattorino ricomparve Il portinaio non l'aveva vista uscire. Ma chi la tratteneva dunque? Se fosse stata malata, lui l'avrebbe saputo. Forse qualche visita. Ma sarebbe stato semplicissimo non riceverla. Tutto a un tratto si batté la mano sulla fronte. Che stupido che sono! Ma si capisce! La sommossa! Una spiegazione così naturale gli diede sollievo. Poi all'improvviso... Però il suo quartiere è tranquillo. E un dubbio disgustoso lo sopraffece. E se non venisse affatto? Se la promessa fosse stata soltanto una parola per sbarazzarsi di me? No, no, non è possibile. Era certo un caso straordinario trattenerla, uno di quegli avvenimenti che mandano all'aria qualsiasi progetto. Nel qual caso gli avrebbe scritto avvertendolo. E Federico mandò il fattorino a casa sua, in Rue Rumfort, a vedere se non ci fosse qualche lettera. Nessuna lettera. L'assenza di notizie, lo rassicurò. Traeva presagi dal numero di monete prese su a caso con la mano, dalla fisionomia dei passanti, dal colore dei cavalli. Quando il vaticinio era avverso, cercava di non crederci. Negli attacchi di furore che lo prendevano contro Madame Arnoux, la insultava a bassa voce. Debolezze da svenire s'alternavano a soprassalti di speranza. Sì, stava per arrivare. Era là, alle sue spalle, ma girandosi... Niente. Poi furono le cinque e mezzo, le sei. Accendevano i lampioni a gas. Madame Arnoux non era venuta. La notte precedente, Madame Arnoux era sognata di trovarsi già da parecchio tempo sul marciapiede di Rue Tronchet. A un tratto, un dannato cagnolino le si scagliava contro e addentava l'orlo della sua veste. S'ostinava, abbaiando sempre più forte. Madame Arnoux era svegliata. Il cane continuava ad abbaiare. Tese l'orecchio. Veniva dalla camera del bambino. Vi si precipitò a piedi nudi. Era lui, in preda a un accesso di tosse. Le mani gli bruciavano, la faccia era rossa, la voce stranamente rauca. La difficoltà di respirazione aumentava di minuto in minuto. La signora restò fino all'alba a scrutarlo, curva sul suo lettino. Alle 8 il tamburino della Guardia Nazionale venne ad avvertire Arnoux che i suoi camerati lo aspettavano. Vestitosi in tutta fretta, se n'era andato, promettendo di passare immediatamente ad avvertire il loro medico, il dottor Collot. Alle 10 Collot non s'era visto. Madame Arnoux mandò la cameriera. Il dottore era fuori, in campagna, e il suo giovane sostituto era in giro per le visite. Madame Arnoux fu colta dallo spavento. Si buttò sul campanello e si mise a invocare soccorso gridando «Un medico! Un medico!» Dopo 10 minuti arrivò un vecchio signore in cravatta bianca, coi favoriti grigi ben curati. Fece una quantità di domande sulle abitudini, l'età, il temperamento del piccolo malato. L'aria tranquilla del brav'uomo era insopportabile. Sembrava imbalsamato. La signora sentì l'istinto di percuoterlo. Sarebbe tornato, disse, prima di sera. Gli accessi terrificanti ricominciarono ben presto. A volte il bambino saltava su di colpo dal letto. Moti convulsi gli scuotevano i muscoli del petto e il ventre, respirando, gli si scavava come se gli mancasse il fiato dopo una corsa. Poi ricadeva testa indietro, la bocca spalancata. Con infinite precauzioni la madre cercava di fargli inghiottire il contenuto dei piccoli flaconi, lo sciroppo, la pozione solforosa, ma lui respingeva il cucchiaio lamentandosi flebilmente, con parole che erano come soffiate. Stava lì come di pietra, le braccia abbandonate lungo il corpo, lo sguardo fisso, quando venne Colò. Il bambino, a sentir lui, era fuori pericolo. Dapprima lei non capì e si fece ripetere la frase. Non era una di quelle consolazioni che i medici hanno l'abitudine di largire? Il dottore se ne andò con un'aria tranquilla. Le parve allora che le corde che le stringevano il cuore s'allentassero di colpo. Fuori pericolo! È mai possibile? Il pensiero di Federico le si presentò tutto un tratto in un modo preciso, inesorabile. Era un avvertimento della provvidenza, anche se il Signore, nella sua misericordia, aveva voluto risparmiarle per ora la punizione. Quanto avrebbe dovuto espiare in futuro se avesse perseverato in quell'amore? Suo figlio di certo sarebbe stato colpito a causa di lei. Lo vide, giovane uomo ormai ferito in qualche sfida, portato via su una barella, moribondo. Si inginocchiò impetuosamente sulla seggiolina e con tutte le sue forze, lanciando verso l'alto la sua anima, offrì a Dio come un olocausto il sacrificio della sua prima passione, della sua unica debolezza. Federico intanto era tornato a casa. S'era lasciato andare sul divano e non trovava nemmeno la forza di maledirla. Una specie di sonno lo sopraffece e nell'incubo del dormiveglia sentiva cadere la pioggia e credeva d'essere ancora laggiù, sul marciapiede. La mattina dopo, per un'estrema viltà, mandò un altro fattorino a casa di Madame Arnoux. Nessuna risposta. L'insulto era davvero eccessivo. Fu preso da una collera d'orgoglio. Giurò a se stesso che non avrebbe più tollerato il minimo desiderio e il suo amore scomparve come il fogliame di un albero strappato dall'uragano. Gli sembrò di provarne sollievo, una sorta di stoico godimento e, subito dopo, un bisogno d'azioni violente, e si mise a girare per le strade senza avere una meta. All'altezza di Rifrascati, vedere le finestre della marescialla gli mise in testa un'idea folle, una reazione di giovinezza. Attraversò il boulevard. Stavan chiudendo il portone e Delfina, la cameriera, ci scriveva sopra a carboncino «Armi già consegnate». Con aria frenetica gli disse: «La signora è proprio in un bello stato. Giusto stamattina ha licenziato il valletto che le aveva mancato di rispetto. Sta crepando di paura. È convinta che saccheggeranno ogni cosa. E per di più il signore è partito». «Il signore chi?» «Il principe!» Federico giunse nel boudoir. Comparve la marescialla in sottoveste, con i capelli sciolti sulla schiena e un'aria sconvolta. «Oh, grazie, grazie. È la seconda volta che vieni a salvarmi e non pretendi mai il compenso, tu». «Ti chiedo scusa», disse Federico stringendola alla vita. «Di, cosa stai facendo?» balbettò la marescialla un po' stupita e un po' rallegrata da quei modi. «Mi riformo, m'adeguo alle usanze», le rispose. Lasciò che la rovesciasse sul divano e rideva, non smetteva di ridere sotto i suoi baci. Passarono il pomeriggio a guardare dalla finestra il popolo che s'accalcava nella via. Poi lo condusse a cena ai tre fratelli provenzali. Fu un pasto lungo, delicato. Al ritorno non c'erano vetture, si incamminarono a piedi. Thank you. Alla notizia di un cambiamento di governo, Parigi s'era trasformata. Dappertutto c'era allegria. Molta gente andava a spasso, le lampade accese a tutti i piani delle case facevano luce come a giorno pieno. I soldati riguadagnavano stancamente le caserme con un'aria triste, mezzi tramortiti. Il clamore delle voci era immenso. La folla era troppo compatta, tornare indietro direttamente era impossibile. Stavano per imboccare Rue Caumartin, quando all'improvviso, dietro di loro, esplose uno strepito, come se un immenso pezzo di seta venisse stracciato di schianto. Era la scarica di fucilate del Boulevard de Capucin. «Accoppano un po' di borghesi», disse tranquillo Federico. «Ci sono situazioni in cui un uomo, anche il meno crudele, è così staccato dagli altri che vedrebbe perire il genere umano senza un palpito di compassione». La marescialla, aggrappata al suo braccio, batteva i denti. Dichiarò che non era in grado di fare 20 passi di più. Allora, in un'estrema raffinatezza dell'odio, per meglio oltraggiare in se stesso l'immagine di Madame Arnoux, portò Rosa Nett fino alla casa di Rue Tronchet, nella camera preparata per l'altra. I fiori non erano appassiti. La trina era distesa sul letto. Dall'armadio tirò fuori le pantofoline. Tante premure parvero squisite alla ragazza. Verso l'una, lontani battiti di tamburo la svegliarono e lo vide che singhiozzava, la testa sprofondata nel cuscino. «Ma cos'hai, amore mio?» «Sono troppo felice», disse Federico. «Era da tanto tempo che ti desideravo». Uno schianto di fucilate trasse bruscamente Federico dal sonno e, senza curarsi delle preghiere di Rosa Nett, volle andare a tutti i costi a vedere cosa stesse succedendo. Nel discendere gli Champs-Élysées, da dove i colpi erano partiti, Federico incrociò all'altezza di Rue Saint-Honoré alcuni uomini in blusa che vociferavano. «No, no, non da questa parte, di là, al Palazzo Reale!» Si mise a seguirli. I cancelli dell'Assunzione erano stati divelti. Un po' più in là, in mezzo alla strada, vide 3 blocchi di lastrico sollevati, un accenno di barricata, evidentemente, e ancora cocci di bottiglia e rotoli di fil di ferro per impacciare la cavalleria. Poi, di colpo, saltò fuori da un vicolo un giovane alto e pallido, con i capelli neri ondeggianti sulle spalle. Impugnava un lungo fucile da soldato e andava correndo in punta di ciabatte, sciolto e veloce come una tigre e con una certa aria da sonnambulo. A intervalli si udiva qualche sparo. Uomini di frenetica eloquenza arringavano la folla agli angoli delle strade. Altri nelle chiese suonavano le campane a martello. Si fondeva piombo, si confezionavano cartucce. Alberi dei boulevard, vespasiani, panchine, cancellate, lampioni, tutto fu sradicato, rovesciato. All'alba Parigi era coperta di barricate. Non ci fu molta resistenza. Si metteva in mezzo dappertutto la Guardia Nazionale. E alle 8, con le buone o con le cattive, il popolo si era già impadronito di 5 caserme, di quasi tutte le sedi municipali, dei punti strategici decisivi. La monarchia si dissolveva, rapida e senza scosse. L'attacco adesso era contro il posto di guardia di Château d'Eau per liberare 50 prigionieri che in effetti non c'erano. I tamburi battevano la carica, si alzavano grida acute, urli di trionfo. La folla ondeggiava di continuo in una sorta di risucchio. Federico non avrebbe potuto muoversi, stretto com'era fra 2 massicce moltitudini. E poi era affascinato, si divertiva un mondo. I feriti che cadevano a terra, i morti lunghi distesi, non avevano l'aria di veri feriti, di veri morti. Gli sembrava d'assistere a uno spettacolo. I municipali tenevano duro. Ma una carretta stipata di fieno che bruciava come una torcia gigantesca fu trascinata contro le mura. Poi, in fretta, aggiunsero fascine, paglia e un bariletto di alcol. Il fuoco prese a serpeggiare lungo le pietre. L'edificio fumava da ogni parte come una zolfa tara. In alto, fra le colonnine della terrazza, larghe fiamme esplodevano sibilando. Il primo piano del Palazzo Reale s'era popolato di guardie nazionali. Sparavano sulla piazza da tutte le finestre. Le pallottole fischiavano, dalla fontana bucherellata l'acqua scendeva a mescolarsi col sangue in fangose pozzanghere, in mezzo alle quali si scivolava su armi abbandonate, caschi e vestiti. Federico fu investito in pieno da un uomo che gli cadde addosso rantolando con una palla nelle reni. Quel colpo, che forse era diretto a lui, lo rese a un tratto furioso e stava per slanciarsi in avanti quando una guardia nazionale lo trattenne. «È inutile! Il re se n'è belle andato! Vada lei a vedere se non ci crede!» Quella notizia restituì la calma a Federico. Le porte del palazzo erano aperte. I domestici sulla soglia lasciavano entrare. In una saletta a pian terreno era apparecchiato per il caffè e latte. Qualche curioso, per far dello spirito, si mise a tavola. Gli altri restavano in piedi. Fra questi, un conducente di fiacre, che afferrata a due mani una zuccheriera colma e dopo aver gettato a destra e a sinistra uno sguardo inquieto, si mise a mangiare voracemente, ficcandoci dentro il naso. Ai piedi della grande scalinata, un uomo stava scrivendo il suo nome sul registro. Federico lo riconobbe da dietro. «Chi si vede? I sonné!» «Naturalmente», rispose lo scrittore. «È la mia introduzione a corte! Che bella commedia, eh? E se andassimo di sopra?» E arrivarono nella sala dei marescialli. Tranne una, trafitta all'altezza del ventre, le effigi di quegli illustri personaggi erano tutte intatte. Se ne stavano appoggiati alle loro sciabole, con un affusto di cannone alle spalle e in atteggiamenti formidabili, piuttosto stonati con le circostanze. Una grossa pendola segnava 1:20. Anna Buonaiuto ha letto L'educazione sentimentale di Gustave Flaubert, a cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it